vicino museo. Ma è facile, è dritto la strada, però facciamo sì. Lo rifarà. Non si può vedere. Aspetta, non andate nell'acqua, scusate. Ciao Beppe. Ciao Beppe. Ciao maestro. Cosa pensa? Domani allora che la sveglia mi chiama. Va bene. Dove sei? Credo per così. Qua al Crystal, delle palme non c'era. Va bene. Ti chiamate immediatamente. Signora, grazie. Arrivederci, buonasera. Va bene. Sta benissimo. Ciao, arrivederci. Grazie, ciao. Ciao, ciao di nuovo. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Passiamo al Mediterraneo. Arrivederci, buonanotte. Ciao.